Libro del Levitico. Il Signore chiamò Mosè e gli parlò dalla tenda del convegno dicendo: «Parla ai figli di Israele e di loro: quando uno di voi presenterà un'offerta al Signore, potrà farla di bovini o di ovini. Se la sua offerta è un olocausto di bovini, l'offra maschio senza difetto. L'offra all'ingresso della tenda del convegno, perché sia gradito alla presenza del Signore. Imponga la mano sulla testa dell'olocausto e sarà gradito a suo beneficio per fare espiazione per lui. Poi immoli l'animale alla presenza del Signore e i sacerdoti, figli di Aronne, offrano il sangue e lo spargano intorno all'altare che sta all'ingresso della tenda del convegno. Scuoi l'olocausto e lo tagli a pezzi. I sacerdoti, figli di Aronne, mettano il fuoco sull'altare e dispongano la legna sul fuoco. Dispongano i pezzi, compresi testa e grasso, sulla legna posta sul fuoco che si trova sull'altare. Lavi nell'acqua intestini e zampe, e il sacerdote faccia salire il fumo di tutto ciò sull'altare. È un olocausto, un dono offerto come odore gradito al Signore. Se la sua offerta è presa dal bestiame minuto, pecore o capre per l'olocausto, l'offra maschio senza difetti. Lo immoli al lato nord dell'altare, alla presenza del Signore. E i sacerdoti, figli di Aronne, ne spargano il sangue intorno all'altare. Lo tagli a pezzi, e il sacerdote li disponga, con la testa e il grasso, sulla legna posta sul fuoco che si trova sull'altare. Lavi nell'acqua intestini e zampe, e il sacerdote offra il tutto e ne faccia salire il fumo all'altare. È un olocausto, dono offerto come odore gradito al Signore. Se la sua offerta al Signore consiste in un olocausto di uccelli, faccia la sua offerta di tortore o di colombi. Il sacerdote l'offra all'altare, ne rompa la testa, ne faccia salire il fumo all'altare, e il sangue sia scolato lungo la parete dell'altare. Ne stacchi il gozzo con le piume e lo getti accanto all'altare a oriente, nel luogo della cenere. Lo squarti prendendolo per le ali, senza dividerlo in due. E il sacerdote ne faccia salire il fumo all'altare sulle legna poste sul fuoco. È un olocausto, dono offerto come odore gradito al Signore.